24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Fiscal Compact. Hollande vuole la verifica costituzionale. Il presidente francese ha chiesto che i magistrati del Consiglio Costituzionale si pronuncino sulla legittimità del Trattato di Bilancio Europeo e la sua conformità con la Carta Fondamentale francese. In Italia bene le aste dei titoli anche dopo il declassamento di Moody's. TAV Torino-Lione, il ministro dello sviluppo Corrado Passera assicura l'impegno del governo italiano e di quello francese. In arrivo un cofinanziamento europeo per i progetti di sviluppo e ripresa economica nelle regioni dell'Italia centro-meridionale. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Il presidente francese François Hollande si è rivolto al Consiglio Costituzionale affinché si pronunci sulla legittimità del Trattato di Bilancio Europeo, il cosiddetto Fiscal Compact. Lo scrive il sito internet France TV Info. In particolare i saggi devono verificare la conformità del Trattato con la Carta Costituzionale francese per consentire la sua ratifica. In Italia i titoli all'asta sul mercato sono andati bene nonostante il giudizio di Moody's che ha declassato di 2 gradini il rating del nostro paese in base alle preoccupazioni sull'incertezza politica per il dopo Monti. Invece lo spread BTP Bund chiude a 479 punti base dopo un massimo di 485 punti con il rendimento del BTP a 10 anni al 6%. Governo italiano, Unione Europea, parti sociali, forze politiche, è un fronte compatto quello che reagisce alla bocciatura dell'Italia da parte di Moody's. Siamo virtuosi e invece di premiarci ci puniscono, commenta il premier Monti. Il downgrade, aggiunge il presidente del Consiglio, è stato una disgrazia, ma il mercato ci ha premiato e l'asta dei titoli è andata bene. Duro anche il giudizio del ministro Passera, per il quale la mossa di Moody's è ingiustificata e fuorviante. Di tempistica inappropriata parla la Commissione Europea. Per Bruxelles la scelta dell'agenzia di rating è anche discutibile per la coincidenza con l'asta dei BTP. Sorprese anche le parti sociali, così il presidente di Confindustria Squinzi. La valutazione di Moody's è una loro valutazione, noi non possiamo farci niente. Però io da imprenditore, da presidente di Confindustria, da privato cittadino, credo che il nostro paese è più forte di questa valutazione. Perplessi i sindacati. Bonanni, CISL, tuttavia il governo ricorda per le riforme è necessario ricercare la massima coesione sociale. Sul lavoro faremo di più, replica Monti dagli Stati Uniti. Il sistema bancario è solido, aggiunge, lascerò nel 2013. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il buon andamento di Wall Street ha dato la spinta ai listini europei che hanno terminato la seduta con rialzi superiori al punto percentuale. In Europa i mercati hanno beneficiato anche del buon esito dell'asta italiana che ha mostrato rendimenti in calo nonostante il declassamento da parte di Moody's. Milano ha chiuso in rialzo dello 0,96% grazie soprattutto al balzo dei titoli del lusso che hanno compensato l'andamento debole di banche e auto. Salvatore Ferragamo ha così guadagnato oltre 6%, seguita nel comparto da Luxottica e Tozzi in crescita di oltre il 2%. La peggiore sul FTSE MIB è stata Fiat, meno 3,3%, che ha chiuso in controtendenza rispetto al settore europeo, risentendo del calo di Peugeot, meno 7,6% a Parigi, e dei continui timori sulla forte esposizione del gruppo al mercato europeo e all'Italia. Nel resto del listino, Fonsa e Unipol hanno perso rispettivamente il 18,5% e il 7,8% in attesa dell'aumento di capitale che partirà lunedì prossimo. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. La TAV Torino-Lione è stato l'altro tema di rilievo di ieri. Il ministro dello sviluppo Corrado Passera ha assicurato che l'impegno per la realizzazione del progetto è totalmente confermato da parte del governo italiano come di quello francese. Ecco, io ho appena parlato con il ministro francese dei trasporti e non c'è in nessuna delle loro ipotesi una modifica ai piani già fatti, già approvati, agli impegni già presi a livello internazionale, quindi il progetto del Torino-Lione così importante nel quadro della rete dei corridoi fondamentali europei è totalmente confermata ovviamente da parte nostra, ma anche in maniera piena da parte del governo francese. L'alta velocità è legata ad accordi internazionali e a un trattato, ha poi chiarito il ministro dei trasporti francese. Francia e Italia hanno messo la loro parola a ritornare su questa parola fuori discussione, ma per il progetto ora serve un nuovo accordo che tenga conto dei finanziamenti disponibili, in particolare quelli europei. Tra il 2014 e il 2020 le regioni dell'Italia centro-meridionale dovrebbero godere di un tasso di cofinanziamento europeo compreso tra il 75 e l'85% per i progetti di sviluppo e ripresa economica. È una delle richieste contenute in un pacchetto legislativo approvato dalla Commissione per lo sviluppo gruppo regionale dell'Europarlamento. Secondo una proposta della Commissione europea, le regioni con un prodotto interno lordo compreso fra il 75 e il 90% della media comunitaria, chiamate regioni in transizione, avrebbero dovuto usufruire di un cofinanziamento fino al 60%. Stime preliminari di Bruxelles inseriscono tra le regioni in transizione Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna. Nel pacchetto legislativo si invita inoltre a uniformare all'85% il cofinanziamento per le regioni meno sviluppate dell'Unione, quelle cioè con un PIL inferiore al 75% della media europea. Tra questi ci sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. L'Italia è in carreggiata, segue con attenzione il programma di aggiustamento legato agli aiuti ricevuti nell'autunno scorso e, nonostante le difficili condizioni macroeconomiche e prospettive di crescita modesta, ha raggiunto gli obiettivi nel primo semestre 2012 e può rientrare nell'obiettivo di deficit dell'8,6% del PIL per quest'anno. È positivo quindi il rapporto della settima missione della Troica Unione Europea BCE-FMI, che ieri ha concluso il lavoro cominciato il 3 luglio a Dublino, anche se resta comunque essenziale mantenere un controllo prudente sulle spese, comprese quelle per la sanità. Esistono le condizioni per investire nella banda larga in Europa e colmare il gap di competitività che la separa sempre più dal resto del mondo. È il segnale forte che ha dato ieri la commissaria all'agenda digitale Nelly Kroes al settore delle telecomunicazioni, fornendo un'anticipazione delle linee guida del prossimo pacchetto di regole europee. La Kroes si è impegnata a presentarlo per l'adozione formale entro la fine dell'anno, con l'obiettivo che le nuove regole restino in vigore almeno sino al 2020. Elementi chiave del nuovo pacchetto saranno regole antidiscriminazione per evitare che ad essere avvantaggiati siano gli operatori storici, ovvero gli ex monopolisti. Niente tagli ai prezzi del rame e più flessibilità dei prezzi d'accesso all'ingrosso ai servizi di nuova generazione, che non dovranno più essere soltanto legati ai costi. Primo via libera dell'Europarlamento alla nuova direttiva sull'efficienza energetica dopo un compromesso raggiunto con Commissione europea e Consiglio europeo il 13 giugno. Il testo della direttiva prevede l'obbligo del rinnovo per gli edifici pubblici. Il prossimo passo sarà il voto in plenaria, previsto a settembre. Fra le altre misure previste dalle nuove regole europee, l'obbligo per le grandi aziende di sottoporsi a una valutazione sui consumi energetici da parte di terzi. Ogni Stato dell'Unione inoltre stabilirà i suoi obiettivi di efficienza energetica e un piano nazionale ogni 3 anni nel 2014, 2017 e 2020. La Commissione europea giudicherà entro giugno 2014 i progressi compiuti. Le autorità nazionali possono impedire a società estere di fare pubblicità ai loro giochi d'azzardo se le norme a tutela dei giocatori esistenti nel paese di origine non sono equivalenti a quelle del paese in cui hanno deciso di operare. Lo ha stabilito ieri la Corte di giustizia europea in una sentenza sulla controversia sorta tra due società europee che gestiscono giochi d'azzardo e le autorità austriache. I giudici della Corte ricordano che la disciplina dei giochi d'azzardo rientra nei settori in cui restano tra gli stati componenti divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di armonizzazione della materia, i singoli paesi sono quindi liberi di fissare gli obiettivi della loro politica sui giochi d'azzardo e di definire con precisione il livello di tutela perseguito. Ora lo sport. A 15 giorni dall'inaugurazione, l'allarme meteo minaccia i Giochi Olimpici di Londra 2012. Dopo un luglio molto piovoso, sono previste infatti precipitazioni su Londra anche per la prossima settimana di gara. Dario Ricci ha chiesto una previsione al colonnello Mario Giuliacci. Se da noi l'estate finisce grosso modo intorno a Ferragosto, dopo Ferragosto, tra il 15 e il 20 e il 25 di agosto, da loro ovviamente l'estate finisce un po' prima dal punto di vista climatico, finisce proprio ai primi di agosto, perché ai primi di agosto le perturbazioni atlantiche incominciano a farsi vedere piuttosto spesso. Questo non significa che ogni giorno avranno una perturbazione, perché tra il passaggio di una perturbazione e l'altra passeranno sempre i 4 e i 5 giorni, quindi qualche giorno di bel tempo l'avranno pure, anzi probabilmente saranno più i giorni col bel tempo che con il tempo perturbato. Che caratteristiche hanno queste perturbazioni in quella zona, quindi in Gran Bretagna, in quel periodo? Il periodo, ovviamente, essendo ancora il suolo relativamente caldo, quest'aria fresca che arriva dalla Groenlandia dà luogo allo sviluppo di numerosi brevi rovesci, il tipico tempo inglese, insomma, il rovescio che dura mezz'ora e che va poi la schiarita e poi dopo mezz'ora di nuovo un altro rovescio e così via, insomma, una variabilità di ora in ora piuttosto estrema. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Daniele Teruzzi, regia tecnica, e da Paolo Panceni, studio. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.